stagione 2023-2024 del Teatro Odeon. Siamo qui con il direttore artistico Piero Ferrarini, buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno a voi, grazie. Appunto, nuova stagione del Teatro Odeon, che cosa ci aspetta per questo anno 2023-2024? Moltissime novità naturalmente, ma soprattutto al di là di quello che è l'interesse che può essere per la stagione del Teatro Odeon, credo che l'interesse debba essere esteso a tutte le stagioni teatrali. La stagione 2023-2024 è la stagione che segna il vero rilancio del teatro. In che senso? Nella stagione precedente abbiamo avuto il ritorno del pubblico in sala dopo la pandemia. Il 2022-2023 ha segnato il ritorno del pubblico in sala, questo voglio dire è rilevabile, misurabile anche numericamente in base alle presenze. Tutti i teatri hanno avuto buoni risultati. Il 2023-2024 segnerà il rilancio della produzione e questo è, se vogliamo, anche più importante, nel senso che si ricomincia ad investire nelle produzioni teatrali e si ricomincia ad investire in modo diverso. Questo io trovo sia di grande interesse, cioè l'effetto pandemico, quello che ha seguito la pandemia, ha segnato anche una ridefinizione di quello che sono i repertori e di quello che è l'interesse per il teatro e per nuove forme di teatro. A cosa questo sia dovuto sarebbe lungo spiegarlo. Diciamo che sicuramente la maggiore interazione, il maggior grado di interattività che il pubblico, anche il pubblico diciamo in età matura, ha in qualche modo acquisito grazie alla necessità di dover fare i conti con il lockdown, con i lockdown che si sono susseguiti, ha fatto sì che da un lato le modalità anche di vendita, di acquisto dei biglietti, e questo vabbè viene portato avanti, viene più volte ribadito, si sia svecchiato e abbia sicuramente contribuito anche a una diffusione maggiore. C'è sicuramente anche una necessità, è ovvio, di una sociabilità maggiore, meno mediata, la voglia di uscire, questo sicuramente, ma soprattutto ha portato ad emergere generi nuovi che si stanno affermando in ambito teatrale. E questo io non mi stancherò di ripeterlo. Quando si parla di opportunità, Mauro Ferricori, l'assessore alla cultura della regione, ha parlato di opportunità per lo spettacolo dal vivo legata alle tecnologie digitali. Non si riferisce, io credo, soltanto alla possibilità di vendere biglietti e fare pubblicità, ma anche a quella di rivolgersi a un pubblico e quindi a spettatori che hanno un grado di maturità diverso e che esprimono una diversa richiesta di teatro e quindi di forme diverse. Una delle forme che secondo me che stanno esplodendo adesso, forse sarebbe stato difficile prevederlo anche solo qualche anno fa, per esempio quella della stand-up comedy. È una forma che ha avuto origine, diciamo così, sicuramente anche grazie a internet, a YouTube, a questi sistemi di diffusione, agli stessi social, ma che adesso entra nei teatri ed entra nei teatri prepotentemente. Questo voglio dire, una forma anche molto interessante, secondo me, fra l'altro quando fatta bene davvero. Penso all'infotainment, per esempio, tutto quello che è approfondimento scientifico, approfondimento storico, approfondimento culturale, approfondimento di ogni tipo che viene portato sulla rete. Oggi abbiamo questi stessi interpreti, questi stessi youtuber, definirli youtuber forse non è neanche esattissimo, perché sono a tutti gli effetti uomini di spettacolo, che dalla rete entrano nei teatri e di conseguenza, voglio dire, fanno sì che i teatri si riempiano. Ecco, questo secondo me è significativo, segna davvero un cambio di velocità, un cambio di passo in quello che è, diciamo così, il nuovo corso del teatro, quantomeno italiano, ma penso che sia un movimento. Ecco perché, come ho detto in apertura, mi sembrerebbe riduttivo portare l'attenzione solo su quello che è l'attività del Teatro Odeon. Credo che l'attenzione del pubblico, l'attenzione comune, l'attenzione delle istituzioni che presiedono al governo delle attività culturali, quindi le amministrazioni locali, su fino al Ministero, oggi deve essere puntata sullo spettacolo dal vivo. Qualche nome all'interno della rassegna per, insomma, i nostri ascoltatori e ascoltatrici? Ce ne sono tantissimi e si possono trovare sul sito e sui nostri materiali, però io preferisco non fare nomi. È un criterio quello che presiede alla programmazione del Teatro Odeon, del criterio della qualità. Il nome, più o meno conosciuto che sia, non è di per sé stesso una garanzia di qualità. Io preferisco parlare di spettacolo di qualità. Posso dire che tutti gli spettacoli, tutti gli artisti che entrano al Teatro Odeon sono artisti di qualità estrema. Se dovessi farne uno, voglio fare un'eccezione perché so che è un'attrice che io penso assolutamente esattamente il 14 dicembre, ecco Lucia Mascino. Lucia Mascino è un'attrice, secondo me, straordinaria, è già stata nostra ospite, a me piace moltissimo, è straordinariamente dotata da un punto di vista tecnico e supportata da una drammaturgia veramente molto forte. Io ritengo che sia oggi una delle attrici in assoluto migliori nel panorama italiano. Grazie mille per averci raccontato qualcosa di più. Grazie a voi, spero di non aver annoiato.